andremo invece con Lele Liguori dentro dove da circa 3 ore gli 8 grandi, che per il momento sono 7 perché Vladimir Putin, il presidente russo, si aggregherà in un secondo momento, penso stasera o domani mattina. Putin arriva alle 4. Benissimo, questa è la notizia che ci mancava. Bene, Berlusconi ha fatto gli onori di casa, mi pare intorno a mezzogiorno. La giornata come prosegue, Lele? C'è questo incontro dei sette che è iniziato appunto poco dopo mezzogiorno, era prima un incontro informale, poi la riunione, la sessione plenaria dei 7 paesi più industrializzati è cominciata alle 15. La questione di questo G7 vecchio stile, cioè il G7 economico e finanziario, la questione principale riguarda lo stanziamento di alcuni fondi per la lotta all'AIDS e poi l'incremento dei fondi, ma qui sarà soltanto, diciamo così, un impegno formale per ridurre e cancellare il debito di alcuni paesi poveri. Da quella riunione dovranno venire fuori queste indicazioni e per quanto riguarda il fondo per la lotta all'AIDS dovrebbe essere di poco superiore a $1 miliardi, $1,3 miliardi. Molti hanno detto, lo stanziamento va bene, vogliamo vedere quando la cassa sarà riempita e quando questi soldi potranno poi essere utilizzati realmente.